Intanto siamo con Cira Santoro, responsabile del Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno. Apre una nuova stagione, con che fili conduttori? I fili conduttori sono tanti e infatti la stagione si chiama Concerto Elementare, proprio perché ci sono tante voci, tanti elementi, tanti linguaggi che però compongono un unico concerto che guarda alla città di Casalecchio, alla comunità di Casalecchio, ma anche all'area metropolitana e oltre. Allora, intersezioni con altri cartelloni, collaborazioni? Indubbiamente sì, quali? Allora, intersezioni intanto ne abbiamo tanti e apriamo con un'intersezione ormai tradizionale, direi, che è quella con Gender Bender, e quindi ospitiamo Yasmin Goder con Stereotypes Game, che oltretutto fa parte del cartellone di Teatro Arcobaleno, che è un progetto che noi ormai abbiamo abbracciato da anni sulla educazione alle differenze di genere attraverso il teatro. Un'altra intersezione importante che è appunto apre la stagione in abbonamento è quella con Agorà di Elena Di Gioia, Emilia Romagna Teatro, Teatro De Venti, Teatro Ravenna Teatro e Scenario Festival, ed è intorno al progetto Sotterraneo, per cui noi apriamo con Overload di Teatro Sotterraneo e poi ospiteremo Teatro Sotterraneo anche per uno spettacolo per le scuole. E poi altri intrecci, che sono intrecci invece legati alla comunità, al territorio, quindi intrecci con le scuole superiori di Casalecchio, con Istituto Salvemini in particolare, con cui abbiamo questo importantissimo progetto che si chiama Generazioni a Teatro, con il Liceo Da Vinci e con l'Istituto Alberghiero, con Ask Insieme, poi con le associazioni di categoria di Casalecchio con cui organizziamo il Capodanno di Comunità. Certo, e apertura ufficiale di stagione? L'apertura ufficiale è il 7 novembre alle 21 con Overload del Teatro Sotterraneo. Emozioni a lavorare con queste situazioni assolutamente di attualità, giovani, anche in rapporto col pubblico, cosa si vede a immaginare o tra il buio della folla? Ma guarda, io devo dire che negli ultimi anni, soprattutto da quando abbiamo iniziato questo grosso progetto con gli adolescenti, mi sento su una giostra. E le emozioni sono fortissime, sono, devo dire, molto belle, nel senso che soprattutto i giovanissimi, gli adolescenti, portano una carica di energia incredibile. Sembra una cosa retorica da dire, ma è proprio così. C'è tanta allegria, per cui ci divertiamo un sacco, lavoriamo durissimo, tantissimo, però ridiamo anche molto. E poi devo dire che insomma anche la fatica di intrecciare persone e situazioni diverse a volte è una fatica che comunque ripaga quando si hanno dei risultati come quelli che abbiamo avuto noi l'anno scorso. E appunto la stagione passata ovviamente ha delle continuità ma anche delle novità da quel che ho sentito. In realtà noi consolidiamo tante cose della stagione, c'è proprio un modello di stagione rispetto all'anno scorso, anche perché la stagione passata ha sperimentato alcune formule, tra cui questi intrecci appunto generazionali, e abbiamo ottenuto un risultato straordinario. La scorsa stagione abbiamo chiuso con 3.000 spettatori in più rispetto alla stagione precedente, quindi non ci aspettiamo di fare gli stessi risultati quest'anno, naturalmente, perché no? Sono ciclici, ma magari, non so, questo ci aiuterete voi anche. E quindi sì, diciamo che abbiamo deciso di consolidare una formula che è stata quella di intrecciare discorsi, pensieri e pubblici. Improvvisamente con una bacchetta magica, un sogno? Oddio. Domanda che faccio di solito per mettere in difficoltà organizzatori e direttori artistici. Ma guarda, una bacchetta magica, io ristrutturerei il teatro. Beh, dici niente, certo. No, rimetterei a posto il teatro, aprirei una seconda sala, più piccola, e insomma farei di quel teatro uno spazio più contemporaneo. Una cosa logistica, un intervento logistico, quindi. Non è solo logistico, è un intervento logistico che è anche però poetico e di possibilità. Te lo auguro ovviamente. E di possibilità che si aprono quando un teatro ha spazi diversi. Certo, a questo punto allora va da sé il rapporto non solamente con altre intersezioni legate al teatro, ma anche con le istituzioni. Assolutamente sì, devo dire che insomma col Comune di Casalecchio è sempre stato un lavoro ormai. Io personalmente sono lì da 15 anni, prima con ERT, poi dopo con ATER, ma con il Comune di Casalecchio in realtà si fa un lavoro di squadra, per cui abbiamo costruito insieme un progetto culturale su quel teatro e lo stiamo portando insieme, devo dire, con grande coesione. Su questo devo dire che è la fortuna di lavorare in una città piccola, in un comune piccolo, dove il rapporto anche con l'amministrazione comunale è diretto. Certo, è importante, infatti. Il rapporto col pubblico? Il rapporto col pubblico è meraviglioso, che vi devo dire? Cioè, adesso, però devo dire che abbiamo un pubblico che ci ama molto. E c'è un po' anche una chiave che abbiamo adottato negli ultimi anni, che è quella dell'affettività. Nel senso che noi crediamo molto che il pubblico debba essere accolto con un sorriso, con affetto dentro un teatro, perché deve essere un luogo amico, un luogo piacevole per il pubblico, in cui anche una persona sola, anziana o di qualunque età debba entrare e sentirsi bene. E quindi questo il pubblico lo sta ricambiando. Bene, ti auguro il meglio. Grazie, buona giornata. Grazie a te, grazie.